9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 28 di luglio e oggi, ohimè, per una volta un po' in contemporanea con praticamente tutte le trasmissioni di informazione che siano in corso, perché vedo che Orenbus, la 7 si occupano del caso Fiat, Radio Anch'io si occupano del caso Fiat, noi abitualmente non siamo molto allineati, ma oggi evidentemente c'è un'obbligata priorità dal punto di vista dell'informazione. Effettivamente anch'io ho scelto oggi di occuparci del caso Fiat. Di che cosa stiamo parlando? Di questi incontri che saranno tra oggi e domani molto importanti per avviare un nuovo capitolo dopo il referendum tra i lavoratori dello stabilimento Giambattista Vico a Pomigliano, che ha visto a maggioranza più del 60% i dipendenti condividere le nuove condizioni per la produttività nello stabilimento di Pomigliano, una produttività in grado di reggere ai ritmi internazionali. Nuovo capitolo dopo Pomigliano, la volontà dell'azienda di dare una cornice nuova alle relazioni industriali, cioè di procedere alla formazione di una NewCo, cioè di una nuova società nella quale riassumere i dipendenti di Pomigliano a condizioni, quelle votate nel referendum, che diventano condizioni da tutti i punti di vista alternative rispetto a quelle del contratto nazionale di categoria dei metalmeccanici. E poiché il contratto nazionale di categoria dei metalmeccanici nella storia delle relazioni industriali italiane è il punto di riferimento più alto, quello che dà, per così dire, l'atmosfera politico-sociale delle relazioni industriali a tutti gli altri contratti, trattino, è anche per questo che si sviluppa da un po' di anni a questa parte proprio su quel contratto molta tensione, e che quel contratto in realtà offre anche un po' meno flessibilità, parecchia flessibilità in meno rispetto ad altri contratti come quello dei chimici, dei tessili, degli alimentaristi, cioè categorie nelle quali la capacità dei sindacati e anche della FIOM e delle aziende di trovare punti di intesa di reciproco interesse è più elevata. Invece storicamente noi veniamo per esempio da due rinnovi contrattuali dei meccanici nei quali la FIOM non ha firmato il contratto dei meccanici. Allora, questa intenzione, che molto tagliente e contundente rispetto alla tradizione italiana, perché porta l'azienda leader della manifattura italiana ad affermare una svolta centrata sulle produttività stabilimento per stabilimento, punto numero uno. Punto numero due, tocca il contratto nazionale di categoria di cui abbiamo appena detto. Tre, in vigenza di contratto dichiara la volontà dell'azienda di uscire da Federmeccanica, che è l'associazione di Confindustria appunto di settore, e quindi uscendo da Federmeccanica di procedere alla sostituzione di un nuovo contratto da sottoscrivere da tutti i lavoratori che liberamente decidono di accettare le condizioni di Pomigliano e di diventare dipendente di una nuova società. Tutto questo diciamo che comporta obiezioni di molti tipi nel dibattito. Trovate sui giornali italiani in questi giorni obiezioni sia di tipo radicale, frontale, che considera questo l'ennesimo atto di un vero e proprio attacco ai diritti dei lavoratori, una inaccettabile maniera di fare globalizzazione, perché molti continuano a dire ma in realtà in grandi paesi europei come in Francia, col cavolo che i governi consentono di spostare le produzioni da Mirafiori in Serbia, come è stato annunciato pochi giorni fa, perché il governo dà i soldi alle aziende e impone alle aziende dell'auto di rimanere aperte. Ecco, da noi il governo non dà più i soldi alla Fiat. La Fiat non è più quella del secolo precedente, molto tutelata, protetta, sussidiata, incentivata, e in cambio però questa azienda dice io ho una sfida mondiale di consolidamento non solo con la parte americana Chrysler, di cui con la scissione diventa Fiat Auto al 2012 azionista, che viene dopo l'azionista pubblico, lo Stato e i sindacati, ma ho una prospettiva di arrivare dai 3 milioni 4 e 8 che farà la somma di Fiat e Chrysler attuale, bisogna arrivare almeno a 6, quindi devo mettermi in condizioni rapidamente di avere anche un altro soggetto che entra nel capitale di Fiat Chrysler, un altro soggetto privato di settore. Per fare questo ho bisogno di una produttività in tutti gli stabilimenti che ho nel mondo molto elevata, pari a quella brasiliana e polacca, che per anni, non dimentichiamocelo, ha consentito, facendo i margini in Brasile e Polonia, di consentire di tenere aperti gli stabilimenti su cui non si facevano margini utili in Italia. Ecco, tutto questo è sicuramente molto nuovo, e oltre a queste obiezioni di tipo radicale, per così dire, c'ha delle obiezioni poi che vengono anche dalla parte del movimento sindacale e politico che pure ha sostenuto la Fiat, e che dicono: beh, siamo attenti però rispetto a il contratto nazionale. Un conto sono deroghe contrattate approvate con referendum, ma che fanno restare la cornice contrattuale uguale e societaria uguale. Altro conto è pensare a una crasi, a un'interruzione di continuità e a tirarsi indietro da un contratto come quello, perché se non si sta molto attenti, dicono pure sindacati come CISL, UIL, che hanno condiviso il referendum a Pomigliano, il rischio poi di finire in pasto ai magistrati, alle impugnative, e a quel punto ci giochiamo tutto: la rappresentatività di chi ci ha creduto, la credibilità dell'azienda, e tutto questo non può che tornarci in testa come un boomerang. Quindi i dubbi sono molti, tenteremo di capire con alcuni osservatori, deliberatamente non con politici, a dire la verità, come stanno le cose da diversi punti di vista rappresentati. Ecco, vi presento i nostri ospiti di oggi, scusandomi con loro se l'ho fatta un po' lunga all'inizio, ma solo per ricapitolare alcune delle questioni che sono sul tavolo. Allora, abbiamo con noi il professor Pietro Ichino, giuslavorista, che è ben noto ai nostri ascoltatori e che è senatore del PD. Buongiorno Ichino. Buongiorno. Abbiamo Massimo Lo Cicero, che insegna economia aziendale alla Sapienza di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno. E abbiamo Massimo Mucchetti, editorialista del Corriere della Sera. Un caloroso buongiorno a Massimo. Ciao, un caloroso saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, Lo Cicero, cominciamo con lei, che è poi il primo a lasciarci perché alle 9:30 ci deve lasciare. Lei ha scritto ieri: io non vorrei che tutti coloro che obiettano dimentichino però, nel legittimo loro diritto di obiettare, una cosa di fondo, e che i contratti in Italia, come nel tutto il resto del mondo, cambiano quando uno dei due contraenti vuole che cambino. Quindi va bene tutte le obiezioni, però di fronte al fatto di scomunicare questa Fiat che intende procedere a queste radicali novità, non dimentichiamoci che poi se il contraente numero uno si tira indietro è difficile immaginare che un contratto resti in piedi, o no? Questa era la sintesi? No, non proprio, perché ecco. Io ho scritto che i contratti cambiano quando i due contraenti decidono di cambiarli, cioè che il contratto è fatto dai contraenti e non è fatto dalla storia dei contratti, perché il rischio è che si stia, diciamo, coltivando un sogno adattivo, cioè che siccome i contratti del passato dicono una cosa, bisogna che lo dicano anche i contratti del futuro. Un contratto serve a disciplinare il futuro, e se il futuro appare in cambiamento, bisogna cambiare anche il contratto, ovviamente con il consenso dei due contraenti. Questo consenso è un consenso che, rispetto a un contratto vigente e diciamo derogato parzialmente per accordo, secondo lei porta al pensare che ci siano due contraenti che pensano a un contratto diverso solo per l'auto e per Fiat Auto, oppure no? Io penso che la cosa nuova è proprio quella che diceva anche lei nella sua introduzione della discussione: sta cambiando l'industria internazionale dell'automobile. La Fiat ha capito, grazie a Marchionne, che questo cambiamento era in atto e ha costruito questo veicolo Fiat Chrysler, che è alla ricerca anche di un'espansione. Questo veicolo è un veicolo che sarà sul mercato internazionale, dove ci sono, diciamo, condizioni e modi di lavorare che sono diversi da quelli dei singoli mercati nazionali. Resta poi in Italia un'azienda conglomerata che fa ancora capo alla famiglia Agnelli e che non sarà più tanto grande quanto era grande, diciamo, la Fiat di Valletta o di Giovanni Agnelli. Di conseguenza, per questo veicolo internazionale è necessario costruire una struttura di contratti che sia adeguata alle condizioni del mercato internazionale. Qual è la condizione diversa? La condizione diversa è che nel mercato internazionale, e grazie alle nuove tecnologie, è necessario riportare l'attenzione sulle persone, non solo sulla massa degli operai. Non si può tutelare una massa di operai in maniera indistinta. Ogni persona ha la sua responsabilità, la sua produttività, la sua capacità di fare, e ogni persona dà all'azienda un contributo diverso anche grazie alla flessibilità delle tecnologie che quella persona usa. Queste persone responsabili e singolarmente capaci devono essere retribuite di più e meglio di quelli che non sono né responsabili né tecnologicamente capaci. C'è una selezione, come dire, del merito. Questa selezione del merito deve fare sì che l'azienda possa riconoscere una parte dei guadagni dell'incremento di produttività anche come guadagni remunerativi per queste persone. Il che non vuol dire che tutti gli altri non devono guadagnare niente, non vuol dire che bisogna fare due classi, diciamo, gli operai incapaci, i bruti, e gli operai capaci, gli operai tecnologici. Vuol dire che bisogna prendere atto che questo processo lavorativo deve essere normato in una maniera diversa. Io credo che c'è anche un'altra novità interessante dalla cosa che diciamo, lei raccontava. Siccome diciamo, nel sistema dei mercati finanziari sono nati negli anni alle nostre spalle veicoli dallo scopo speciale, cioè società che non servivano a creare un'organizzazione, ma servivano a contenere un progetto, a contenere una dimensione puntuale di ciò che doveva essere realizzato, società, come si suol dire, transitorie, effimere, non società nate per durare, ma società nate per funzionare in una certa fase. Vedo nelle scelte di creare delle newco per ogni stabilimento una, come dire, trasformazione anche del diritto organizzativo del lavoro, cioè vedo una trasformazione nella quale, diciamo, queste newco diventino dei contenitori di strutture di manodopera che non sono strutture destinate a durare, ma strutture destinate a un ciclo. Questo vuol dire che bisogna ragionare non solo di contratti, ma ragionare anche di questa funzione delle società come veicoli di scopo speciale, che non sono le società a cui eravamo abituati noi, non sono le grandi corporation del XX secolo, sono figlie di quelle corporation e strumenti di quelle corporation. Esattamente. Diciamo che se l'obiettivo ideale di questo processo di trasformazione che inizia, e inizia con moltissime perplessità, che io non voglio nascondermi, se l'obiettivo ideale di quello che sembra essere immaginato da chi lo propone è quello di un sistema in cui c'è una specie di duplicità a disposizione per ogni azienda, per chi vuole il riferimento al contratto nazionale al quale siamo abituati tradizionalmente, con le innovazioni poi del nuovo modello contrattuale, quelle firmate nel 2009 per la contrattazione decentrata e il salario defiscalizzato di produttività, dall'altra però la possibilità di invece sostituire al contratto nazionale un contratto aziendale la cui parte ovviamente di garanzia in termini normativi e in termini salariali sia considerato equipollente, ma per così dire immaginato, ritagliato, costruito con il consenso della maggioranza dei lavoratori e dei sindacati sulla singola azienda, una specie di modello in cui si può avere o l'una possibilità o l'altra possibilità. Questo però solo alla fine di un modello di cui qui si intravede solo lo strappo, la proposta iniziale, ma siamo ben lungi dall'avere strumenti condivisi. Perché, prima domanda che io faccio a Pietro Ichino, tanto per cominciare, in questione qui c'è la possibilità prendere come dipendenti, di offrire, di diventare dipendenti della NewCo, della nuova società, solo a quei lavoratori che però condividono le nuove condizioni. Non è detto che debbano avere per forza votato sì al referendum di Pomigliano, ma il sottinteso deve essere stato che se anche hanno votato no devono avere cambiato idea per sottoscrivere le stesse cose a cui, se hanno votato no, avevano espresso la loro opinione contraria. Questo con le nostre norme del lavoro è possibile, è compatibile fare questo primo passo, tanto per cominciare? Lei che pensa? No, io non credo che la Fiat si proponga questo con la costituzione della NewCo, e credo che non potrebbe, anche se volesse non potrebbe farlo, perché quell'operazione, cioè assorbire nella nuova impresa, nella nuova società, solo una parte dei dipendenti della vecchia, era possibile nel caso Alitalia, in quanto l'Alitalia era in amministrazione straordinaria, qui questa condizione non c'è, quindi la materia è regolata interamente dalla disciplina del trasferimento d'azienda, che è una disciplina europea, tra l'altro, su cui la legge nazionale non ha margini per discostarsene, e questa disciplina stabilisce che l'impresa subentrante, cioè acquirente, deve prendersi in carico tutto il personale della vecchia, poi se vorrà potrà licenziarlo, ma non può certo discriminare o comunque scegliere di lasciare a casa qualcuno, di non assorbire qualcuno. Quindi non può essere questo lo scopo della Costituzione della Nuco. Lo scopo della Costituzione della Nuco è innanzitutto quello di svincolare lo stabilimento dal contratto dei metalmeccanici, perché la Nuco non si affilierà a Federmeccanica, a Confindustria, a meno che dall'incontro di oggi fra Marchionne e Marcegaglia non nascano altre soluzioni, ma la logica della cosa è avere un'impresa vergine che nasce senza vincoli associativi o contrattuali e che quindi può applicare soltanto l'accordo aziendale. A questo punto non ci sarebbe più un problema di deroga dell'accordo aziendale rispetto al contratto nazionale, perché il contratto nazionale non si applicherebbe più e quindi dal punto di vista giuridico la cosa non presenterebbe problemi. C'è poi la possibilità che la Fiat abbia in mente anche qualche cosa di più, e cioè poiché con il referendum del 95 sullo statuto dei lavoratori è stato modificato l'articolo 19 sulle rappresentanze sindacali aziendali, e ora la regola contenuta nello statuto dice che devono essere riconosciute dall'impresa soltanto le rappresentanze dei sindacati che abbiano firmato un qualsiasi accordo applicabile nell'azienda. Ecco, potrebbe essere che la Fiat coltivi il disegno di escludere dal nuovo sistema di relazioni industriali che si applicherà nello stabilimento la CGIL, la FIOM CGIL, la quale non ha firmato e presumibilmente non firmerà neanche con la Nuco l'accordo aziendale, e a quel punto, non applicandosi il contratto nazionale, risulterebbe sindacato che non ha firmato alcun contratto applicabile nello stabilimento. E questo la interrompo solo per dire che la prova che questa sia l'intenzione molto probabilmente dell'azienda è data dal fatto che al primo incontro in cui si parla di Fabbrica Italia, cioè della Nuco Pomigliano, infatti non sono invitati dall'azienda esattamente i rappresentanti della FIOM. Ora, a me sembra che questa scelta sarebbe, oltre che ovviamente molto traumatica rispetto al contesto del sistema di relazioni industriali nazionale, sarebbe anche molto pericolosa per la Fiat, perché vorrebbe dire che tutta la conflittualità di cui può essere portatrice un sindacato forte che è, anche se minoritario a Pomigliano, è pur sempre il sindacato più forte in termini anche assoluti nel settore metalmeccanico, questa conflittualità verrebbe espunta dal sistema, messa fuori del sistema di relazioni industriali, e potrebbe portare conseguenze di ingovernabilità di fatto. Sul piano giuridico, ripeto, la cosa starebbe in piedi, ma vedo un problema di possibile conflittualità di fatto altissima, e tra l'altro sul piano politico questa scelta avrebbe l'effetto di tagliare le gambe alla oggi maggioritaria nella CGIL che fa capo a Guglielmo Epifani, schiacciandola sull'ala più massimalista dei Cremaschi, dei Rinaldini, perché a quel punto evidentemente non ci sarebbe più alcuno spazio per una ricucitura, per quella ricucitura a cui Epifani sta, sia pure con scarso esito per il momento, lavorando. Ora, esiste una alternativa a questo? Cioè, aspettiamo, prima di vedere l'alternativa, domanda a Mucchetti. Questo passo poi sia tecnicamente compatibile con la permanenza dei Fiat in Federmeccanica o meno lo vediamo, perché in effetti quello che posso dire con sicura certezza ai nostri ascoltatori è che da due giorni gli avvocati della Fiat da una parte e gli esperti di Federmeccanica si sono al confronto riservatamente, lo erano ancora fino a ieri sera, su un'ipotesi che non arrivi all'uscita da Federmeccanica, sia pur facendo tutto quello che la Fiat aveva in testa di fare. Comunque vedremo questo, ma al di là di questo, il fatto di entrare in un mondo delle relazioni industriali, Massimo Mucchetti, nel quale a dare il passo col consenso della maggioranza dei lavoratori, perché questa è la differenza, non è più chi per ragioni legittime, ma proprie, ma dà il passo più lento rispetto a quello che vogliono le grandi aziende e la grande azienda Fiat, ma sono invece la maggioranza di coloro che accettano l'idea di muovere un passo più avanti, cioè di dire va bene, facciamo 18 turni, quando ci sono gli straordinari che ce lo chiedono non possiamo scioperare, lotta agli assenteisti e no ai finti certificati medici. Però questo, che è chiaramente un modo e un mondo diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi, secondo te che rischi ha? Ti ringrazio di questa domanda, perché forse bisogna ricordare che l'esito del referendum a Pomigliano è stato un esito larghissimamente inferiore alle attese dei sindacati che hanno sottoscritto l'accordo, i quali si aspettavano, basta parlare assieme e fare due conti sul numero dei tesserati, un consenso fra l'85 e il 90%. La FIOM, la posizione diciamo ostruzionistica, negativista su quel fronte, ha riscosso circa il triplo dei consensi rispetto ai tesserati della FIOM. Questo vuol dire che io ci andrei un po' cauto nell'esaltare l'accordo di Pomigliano come la fioritura di una operaia riformista, aziendalista e quant'altro. Penso più ragionevolmente che gli operai e gli impiegati di Pomigliano abbiano fatto due conti tristi e disperati sulla possibilità di conservare il posto di lavoro, e quando l'alternativa è o mangi questa minestra o salti dalla finestra, molti secondo me saggiamente decidono di mangiare la minestra. La domanda che tu mi fai è: ma è questa un'alternativa sana su cui costruire l'avvenire di un grande gruppo e di una nazione, o è un passaggio magari obbligato ma da mettersi alle spalle non appena sia possibile? Io credo che questa è la risposta. Aspetta, che non si è capita la risposta. La tua risposta a questa domanda è? La mia risposta è che in un paese civile l'alternativa o mangi la minestra o salti dalla finestra è un'alternativa che non si deve porre. Okay. Questa qui è la risposta, e cito a questo proposito l'esempio della Germania, dove c'è la più alta concentrazione di produzione in Europa di automobili, dove i salari sono più che doppi rispetto a quelli degli operai italiani, dove il sindacato ha sempre contato infinitamente di più del sindacato italiano e nei consigli di sorveglianza, diciamo grosso modo. Non c'è dubbio. No, ecco, tutto questo è stato possibile ed è tuttora possibile, e non ci sono aiuti speciali, diciamo, superiori a quelli che sono mai stati dati in Italia. Però ti faccio una domanda proprio che è quella ricorrente sulle labbra dei rappresentanti Fiat, e poi la risposta è dopo la pubblicità. Proprio loro dicono: noi dobbiamo affrontare la grande concorrenza. Ieri Daimler ha annunciato un EBIT di 6 miliardi per quest'anno atteso, quindi insomma stiamo parlando di utili larghissimamente superiori a quelli a cui pure è tornata Fiat Auto. Ma detto questo, loro dicono: noi dobbiamo tentare di andare ad armi pari con i tedeschi, che sono sicuramente il paese leader della manifattura automobilistica. Sappiamo tutti che Volkswagen supererà Toyota come primo gruppo produttore mondiale, che venderà tra il 14 e il 16% del totale della sua produzione solo in Cina, cioè stiamo parlando di un'altra frontiera. Però Fiat, in Fiat ti dicono: noi perché ci siamo decisi con Marchionne e Gianelcana a fare questa interruzione di continuità rispetto alle relazioni industriali tradizionali che abbiamo alle spalle? Perché proprio in Germania abbiamo abbiamo pensato né tra 2004 e 2005 grandi gruppi come Volkswagen, di fronte all'idea che bisognava innovare drasticamente la possibilità di essere competitivi, lì l'azienda, che ha un rapporto molto stretto con i sindacati dentro il consiglio di sorveglianza, dissero ai sindacati dipendenti: ragazzi, qui non ce n'è più, e o voi accettate di darci parecchi giorni in più, l'equivalente di parecchi giorni in più l'anno di lavoro senza aumento di stipendio, perché questa fu l'impostazione del contratto di solidarietà Volkswagen 2004-2005-2006, e vediamo come va, e a quel punto possiamo fare anche occupazione aggiuntiva, comunque almeno difendiamo la base occupazionale attuale, però dovete lavorare di più a parità di salario. E loro ti dicono, in Germania la risposta fu sì dei dipendenti, quindi noi abbiamo bisogno dell'equivalente applicato ai problemi italiani, però prima di dire facciamo come in Germania, l'azienda dice dobbiamo fare come in Germania, nel senso che lì addirittura dissero voi lavorate di più e noi non vi paghiamo in più. Questa è la loro riflessione su questo punto. Il caso Fiat, la Newco, le asperità rispetto a un contratto nazionale dei metalmeccanici in cui la Fiat non si riconosce più, di questo che stiamo parlando. Eravamo fermi a una domanda che avevo fatto interrompendo Massimo Mucchetti, che si riferiva all'esperienza tedesca, e io dicevo la Fiat proprio all'esperienza tedesca fa riferimento, dice, però a quella, passo indietro, di metà degli anni 2000, quando l'azienda disse ai sindacati, ottenendo anche il consenso: sì, però ragazzi, per un po' di anni qui bisogna che voi lavoriate di più e io non vi aumento di nemmeno di un euro gli stipendi. Che dici? Pronto? Sì, eccomi. Mi scuso, prima è caduta la linea. Naturalmente l'esperienza tedesca va presa nel suo complesso e quindi va presa con i segni più e i segni meno. Oscar giustamente ricorda il momento dei sacrifici, vanno anche dette altre due circostanze. La prima è che gli stipendi tedeschi, sui quali, come dire, veniva calcolato il sacrificio, erano e sono stipendi assai più alti di quelli italiani. Un conto è scendere da 3.500-4.000 euro, un conto è scendere da 1.200-1.500. Sono due cose diverse, perché il costo della vita non è così diverso fra l'Italia e la Germania. Primo. Secondo, la condivisione è fatta d'accordo con i sindacati, e qui c'è un problema dell'azienda e dei sindacati. I sindacati tedeschi hanno dimostrato nel loro complesso di essere più intelligenti dei sindacati italiani. Terzo e non trascurabile punto, la presenza dei sindacati nei consigli di sorveglianza delle imprese, lo dico per l'equivalente grosso modo dei nostri consigli di amministrazione, ha poi comportato il fatto che, finita la crisi negli anni scorsi, quando le cose andavano bene, i bonus che venivano dati ai lavoratori, non uno alla volta, a tutti, erano bonus di qualche migliaio di euro all'anno. Cioè, quando va male tiriamo la cinghia e quando va bene facciamo festa a tutti. E non solo i manager a pacchi milioni. Invece in Fiat questo avviene, ma all'italiana, e cioè il premio di, diciamo così, speciale che la Fiat ha riconosciuto è 600 euro e quest'anno non viene dato. Allora, la mia sensazione è che oggi in Italia sia il sindacato che il governo agiscono tutte le volte col fiatone, rincorrono le iniziative, spregiudicate e intelligenti di Marchionne, sempre cercando di agire di rimessa, perché non hanno gli strumenti politico-culturali per giocarsi la partita da protagonisti. Vorrei però, se me lo consenti, introdurre un ulteriore punto che è, a mio avviso, molto interessante. Sì. L'Europa si è fatta sulla base del mercato unico, dove la concorrenza fra i vari produttori di merci, beni e servizi si esercita senza cartelli, cioè senza accordi monopolistici, oligopolistici fra i produttori che stabiliscono i prezzi in danno dei consumatori, e senza aiuti di Stato che distorcono ragioni di competizione fra le imprese. Ora, qui siamo in presenza del fatto che un'automobile che prima veniva prodotta a Torino giocando con queste regole, adesso verrà prodotta in uno stabilimento serbo che è a poche centinaia di chilometri dalla frontiera dell'Unione Europea, che comprende anche la Slovenia, con clamorosi aiuti di Stato. Altro che. E questa è la ragione. Allora la mia domanda è: ma dove va a finire il mercato unico? Ecco, ma questo io con altrettanta sincerità ti dico che il mercato unico, nella impressione che ha avuto chi la pensa come me in questi 22 mesi di crisi, è che sia un po' saltato per aria, perché in definitiva di fronte a una crisi come quella dell'auto, considerato classicamente un settore fondamentale nel quale tentare di coordinare gli aiuti, la risposta è stata no, ciascuno ha fatto un po' come voleva a casa propria, perché i tedeschi in definitiva questa è la regola che hanno dato all'Europa in questa crisi, e cioè il mercato unico, io temo che abbia fatto dei passi indietro. Capisco per esempio il professor Mario Monti, che ci invita a riconsiderare col suo documento sul mercato unico quello come uno degli acceleratori per uscire dalla crisi, ma di fatto la posizione tedesca molto dura nel dire no a qualunque aiuto coordinato della domanda in settori fondamentali come l'auto e altre della manifattura, nel dire no a qualunque strumento multilaterale cofinanziato, automatico di intervento di stabilizzazione, sia un fondo monetario europeo sia quello che serviva per la Grecia e così via, temo che gli effetti si vedano e di questi effetti siano poi anche figli le conseguenze a quel punto realistiche e pratiche di aziende come la Fiat, che dicono vabbè signore, allora per evitare che siano solo i tedeschi a romperci le case e le scatole, visto che si fa come vogliono loro comunque e nazione per nazione in Europa, ce ne andiamo a pochi chilometri dal confine europeo, dove becchiamo un pacco di quattrini dalla BEI da una parte, dall'altra gli incentivi più che decennali del governo serbo, e a quel punto noi spostiamo da Mirafiori. Io devo dire che credo che sia purtroppo realistico e io mi auguro che ci siano aziende capaci di ragionare così in tempi rapidi e di rimanere in piedi con grandi presenze internazionali, piuttosto che aspettare a livello di principio delle realtà che invece non mi sembra siano coerenti rispetto a quello che si aspettavano i coordinatori europeisti, per così dire. Ecco, la domanda che faccio allo Cicero, che si è fermato fino a questo momento, è che cosa c'è da temere di chi dice, ed è anche questo fondato su ragionamenti concreti, cara Fiat, però tu per un secolo hai battuto un'altra strada e adesso è un po' comodo che tu improvvisamente ti metta alla testa di una visione produttivistica anglosassone e che dice ai lavoratori regolatevi o si fa come dico io, oppure ragazzi trovate da un'altra parte. È uno strappo troppo forte rispetto alla tradizione italiana o anche innanzitutto Fiat, con quello che questo vuol dire per le relazioni politico-sindacale italiane? Ma vede, diciamo, la discussione di stamattina fa intravedere chiaramente che da questo impasse si esce solo se lasciamo da parte i duri a morire, diciamo, quelli che si ricordano una stagione nella quale imprese e mercati erano un problema o da affermare con violenza o da rifiutare con violenza. E imprese e mercati sono il modo per produrre e distribuire ricchezza. E dunque o dobbiamo entrambi condividere, i lavoratori e le imprese, questo principio e dire benissimo, attraverso imprese e mercati si può produrre e distribuire ricchezza. Se si produce e distribuisce ricchezza ce n'è per tutti, come dire, perché un contratto costruito per fare è un contratto che genera reddito, questo reddito si distribuisce secondo quello che è stata la sua dimensione e ci guadagnano sia gli operai che le imprese che i soci delle imprese. Ora è proprio questa la questione, io non so se il modello sia il modello il modello dei tedeschi. I tedeschi diventano a volte un modello, ma diciamo non è sempre un modello che funziona. Prima appunto Echino diceva il mercato unico dovrebbe essere un mercato costruito in maniera fondata sulla competizione. Non si capisce però perché in questo mercato unico una parte dei paesi del mercato unico debba avere l'euro, un'altra parte invece può stare fuori dell'euro e la parte che ha l'euro, guidata dai tedeschi, dal cancelliere Merkel, dice che l'Europa deve deflazionare mentre l'Europa non deve deflazionare. A maggior ragione non dovrebbe deflazionare la Germania, che è l'unico paese esportatore netto dell'Europa. Quindi questo mercato unico a doppio scarto, scarto euro, scarto senza euro, oppure questo mercato che diventa a volte ai confini dell'Europa, oltre il confine per il mercato del lavoro. E la verità è che il mercato dell'auto non è un mercato europeo, è un mercato mondiale. Allora o si lavora in una prospettiva nella quale si possono far convivere le differenze nella maniera più intelligente per i contraenti, ma allora i contraenti, sindacati e organizzazioni imprenditoriali, non devono né rimpiangere un passato di potenza eccessiva nei confronti della controparte. Nel rimpiangere il fatto che imprese e mercati siano il modo per produrre e distribuire ricchezza, ma dovrebbero invece i contraenti costruire rispetto alla realtà del mercato mondiale quello che vogliono costruire. L'Europa da questo punto di vista ha bisogno di una regolata, ma non solo l'Europa del mercato unico, anche l'Europa dell'euro e anche l'Europa del dumping del welfare che si riesce a fare quando uno si allontana troppo dall'Europa. L'Europa in fondo è molto più fragile e inconsistente di come ce la siamo raccontata per molti anni. Senatore Chino, nel primo intervento lei ha detto attenzione, è un rischio quello di lasciare fuori Fiom, anche se ha un'idea combattiva, conflittuale e in talune versione antagonista, perché lasciandola così anzi facciamo un favore, per così dire, sto sintetizzando in maniera un po' impropria, proprio all'ala più antagonista e a quella meno riformista. Dall'altra parte le chiedo, se si seguono i caveat che lei ha dato all'inizio per evitare rischi che altrimenti si infrangerebbero contro la parete, per così dire, quindi non farebbero fare un passo alla faccenda, come si fa a immaginare di portarsi tutti dietro anche coloro che però quella cultura poi ce l'hanno? Io capisco che lei mi dice, ma questa è la sfida della democrazia, d'accordo, ma quando un'azienda dice io ho bisogno di una discontinuità tale che o cambio moltissimo in tempi molto stretti, oppure qui il problema, per essere chiari, è che non è che si ridiscute Pomigliano, ma la presenza in questo paese, e la risposta non è quella che a tempi difficili e a proposte nuove bisogna saper dire anche a chi ha il passo più lento o cambi e diventi riformista oppure no? Ma, guardi, cominciamo col dire che la globalizzazione non c'è dubbio che indebolisce, colpisce la fascia bassa professionale dei lavoratori italiani, ponendoli in concorrenza con quelli dei paesi emergenti, però già lì qualche cosa il sistema può fare. Oggi sulle buste paga di 1000 euro al mese l'IRPEF grava per 110 euro. A me sembra una cosa inaccettabile. 1000 euro in Italia oggi è una soglia di povertà e quindi dobbiamo prendere atto di questo effetto della globalizzazione e fare quello che si può fare a livello di sistema, di politica, di intervento legislativo, abbattendo drasticamente l'IRPEF sulle... troviamo il modo, ripristiniamo l'ICI sulle case dei ricchi, evitiamo gravare con l'IRPEF, si tratta di qualche miliardo, credo che costi 8 miliardi la detassazione dei redditi fino a 1000 euro al mese, li si possono trovare, pensiamo che solo 4 miliardi li abbiamo sacrificati per l'ICI sulle case. È d'accordo per il fisco. Poi? Un primo passo che credo sarebbe assolutamente doveroso per la solidarietà, per rafforzare anche la posizione contrattuale dei lavoratori più deboli in questa situazione. Detto questo, il resto a mio avviso va affidato alla democrazia sindacale, che implica regole che stabiliscono chi può contrattare e anche contrattare deroghe rispetto al contratto nazionale. E in questo caso CISL, UIL, FISMIC sono maggioranza e devono poterlo fare, tenendo presente che la deroga non vuol dire necessariamente una deroga al ribasso, deroga può anche voler dire aprire uno spazio a una innovazione che può comportare sacrifici all'inizio ma porta a guadagnare di più sul medio e lungo termine. Quindi lasciamo al sindacato di fare il suo mestiere di sindacato, e però perché lo possa fare occorrono delle regole che individuino chi può contrattare anche le deroghe a nome di tutti e che però tenga regole che tengano dentro il sistema chi è in minoranza, in questo caso la FIOM CGIL. Queste regole dovrebbero essere, l'ideale sarebbe che fossero poste da un accordo interconfederale firmato da tutti, che consentirebbe alla FIOM CGIL di restare dentro il sistema di relazioni sindacali anche rifiutando essendo in minoranza, l'accordo aziendale che si applica a Pomigliano e domani potrà applicarsi in altri stabilimenti della Fiat, ma a quel punto la FIOM resta dentro il sistema e accetta, questo è quello che si deve chiedere e che la CGIL è disposta a dare, l'impegno a rispettare il contratto firmato da chi rappresenta la maggioranza dei lavoratori. Perfetto, allora le regole sulla rappresentanza sono quelle che la CGIL ha chiesto sempre molto, a dire la verità, e su questo erano gli altri a non essere molto d'accordo. Allora, rapidissimamente qualche telefonata dei nostri ascoltatori e poi un ultimo giro di rapida opinione con Massimo Mucchetti. Allora, iniziamo da Angelo, da Milano. Angelo, lei che pensa? Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Guardi, è semplice. Chino diceva che i sindacati dovrebbero fare il loro lavoro. Secondo me i sindacati non sono capaci di fare il loro lavoro perché sono, diciamo, fermi sulle loro posizioni. Non vedono dove sta andando il mondo e come si sta sviluppando. Parlate del mondo dell'auto. Il mondo dell'auto è completamente cambiato. Prima di sedersi al tavolo con Marchionne, che è uno che probabilmente la sa molto lunga, dovrebbero studiare il mondo dell'auto, confrontarsi con quello che succede all'estero e dopodiché fare delle proposte serie, perché non è detto che bisogna per forza che le regole siano sempre quelle. Le regole si possono cambiare, i contratti si cambiano, il mondo cambia, bisogna adattarsi. I sindacati potrebbero fare come hanno fatto i sindacati americani, i sindacati tedeschi, dire ok, accettiamo questo, ma tu azienda mi dai dei posti di lavoro in più entro tot anni, fare delle proposte. Non hanno proposte, sono fermi. Grazie Angelo, grazie Angelo. Netto per Angelo, la Fiat ha ragione e aiuta con i suoi strappi a innovare finalmente. Massimiliano da Roma, come la pensa invece? Sì, buongiorno. Innanzitutto una breve risposta all'ascoltatore di prima, che secondo me se i sindacati non hanno fatto il loro lavoro è perché oggi gli operai in Italia guadagnano 1.100 euro, mentre negli altri paesi ne guadagnano molto di più. E dall'altra parte invece secondo me tutta la questione Fiat secondo me, mi sembra che venga un po' nobilitata, cioè si stia cercando un po' di nobilitarla. Credo invece personalmente che la Fiat segua i propri interessi, cioè che voglia ma questo è ovvio, questo perdone, sì. Quello che voglio dire, perché i riferimenti che si fanno sempre, cioè che anche prima sentivo, sì, al discorso della Germania, sì, è un po' diverso, perché trova il sistema Germania è molto più complesso. Ne ha parlato Massimo Mucchetti, ce lo ha ricordato, esatto, certo. Esatto, quindi insomma cioè, la Volkswagen non farebbe mai così come sta facendo Fiat, che prima apre uno scenario, poi nel frattempo comunque lavora ad altri obiettivi. Massimiliano, cioè, io però la invito a dire, se la Fiat avesse chiesto ai dipendenti di Pomigliano, voi lavorate di più e io non vi pago di più, vi pago come prima, avremmo detto che erano gli schiavisti. È esattamente quello che è successo alla Volkswagen, in cambio poi di altre cose, però è esattamente quello che è successo. Quindi io lo dico solo perché appunto è un argomento ricorrente quando si parla con i rappresentanti di Fiat in queste settimane, ecco. Comunque Massimiliano è di un'opinione diversa da Angelo e dice no, attenti, la Fiat non è tutto quel che è logico. Giuseppe dalla provincia di Lucca. Sì, dottor Giannino, buongiorno. Senta, la mia opinione è questa. Innanzitutto un accordo è un accordo bilaterale fra parti e quindi la parte che ha disatteso l'accordo sono i sindacati. Io ho diretto un'azienda per tanti anni, molti anni, e con i sindacati si poteva far ben poco. Poi parlano di precarietà, qui non è un problema di automotive o non automotive, qui è un problema generale. Io lavoravo nell'elettronica, no? I sindacati protestano per il precariato, che cosa fanno loro? Ti permettono di fare un contratto a progetto e poi lo ripeti e poi stanno a casa 20 giorni e riassumi la stessa persona, cioè adesso si mettono a dire che i dipendenti sono sulla soglia di povertà, ma ci dovevano pensare prima, e che loro non hanno fatto nulla, loro hanno pensato soltanto di andare a rappresentare in Parlamento qualcuno, e difatti la maggior parte dei posti in Parlamento sono presi dai sindacati. I sindacati che rappresentavano prima rappresentavano quella che era la massa, come lei l'ha definita nell'ultimo penultima trasmissione e non ripeto l'epiteto. Va bene Giuseppe, allora i nostri ascoltatori, almeno quelli che questo campione non rappresenta un campione né dell'opinione di coloro che sono in ascolto eccetera eccetera, sono le telefonate di stamattina, però diciamo non mi meraviglia nemmeno che tra i sostenitori della nostra radio, anche se gli sms dicono che i critici sono tantissimi, l'iniziativa Fiat abbia più favorevoli che contrari, ma però i problemi qui sono tanti. Allora Mucchetti, per concludere in un minuto a testa, uno minuto a te e un minuto allo Cicero, tu pensi che ci sia il margine comunque per, ragionando tutti insieme, per fare qualcosa di utile a Fiat Auto, suoi dipendenti ma anche paese, o il rischio di deragliare, vista la delicatezza di tutte queste questioni, prevalga sulla possibilità di decisioni positive nelle prossime ore? Ma io credo che la possibilità di raggiungere un accordo che abbia un futuro fra le parti esiste, e direi che il punto di partenza per questo accordo è la consapevolezza da parte dei sindacati, ma anche da parte dell'azienda e da parte del governo, che l'Italia non è più il principale sito produttivo del gruppo Fiat nel suo complesso, ma è di gran lunga il principale mercato, e quindi qui c'è la ragione di diciamo è la ragione di scambio su cui si può pensare di diciamo così conquistare la Fiat a quell'idea riformista di Ichino, che io condivido dalla A alla Z, di una trasformazione agile, dinamica delle relazioni sindacali, ma non di ma non il taglia fuori esatto. Perché poi dopo ci ritroveremo i terroristi, la dico in un modo molto tranchant, ma quello è il destino. Siamo passati una volta, non ci passiamo. Evitiamo, ecco è questo. Quindi regole di rappresentanza che consentano a chi non è d'accordo di continuare a dire che non è d'accordo, ma senza per questo essere tagliato fuori, perché sennò si rafforza il parto delle pistole. Questa osservazione di Massimo, io sono contento che siamo venuti fuori nella nostra trasmissione, perché la mia e la sua è una generazione che queste cose le ha dovute toccare con mano, con grande dolore e con grande, insomma, io non vorrei davvero, ecco. Quindi questa preoccupazione non è una preoccupazione impropria, lo dico a chi a casa sta reagendo dicendo no, andiamo avanti, queste sono cose delicate nella storia del nostro paese. Lo Cicero, faccio la stessa domanda anche a lei, un minuto, ma c'è più pessimismo o ragione di ottimismo? Io penso che noi dobbiamo essere ottimisti, primo perché non dobbiamo aprire la strada al terrorismo, su questo è evidente che una comunità è tale se la gente ragiona in comune, cioè noi non possiamo buttare fuori dalla discussione e dalla relazione un gruppo di persone che ha un'opinione diversa dalla nostra. Però fatta questa premessa, com'è che si costruisce questa comunità? Credo che abbia ragione il primo dei suoi ascoltatori. Io ricordo che subito dopo la guerra, quando ci fu una aggregazione forte della massa degli operai della Fiat per salvaguardare la Fiat stessa dalla distruzione che i tedeschi avevano minacciato e per rilanciare l'azienda, c'era uno dei leader degli operai torinesi che si chiamava Egidio Sulotto, che era una persona che conosceva talmente bene l'azienda e i suoi processi lavorativi che partecipò attivamente come disegnatore, era un tecnico, che partecipò attivamente come disegnatore al più grande prodotto innovativo della Fiat, alla costruzione della 500. Io credo che i leader del movimento sindacale dovrebbero ritornare a occuparsi di quello che si fa in fabbrica e non di occuparsi, come si dice, di uno schieramento ideologico, politico, comunque sistematico. Perfetto. Che secondo me non è mestiere. Allora, io mi auguro che gli ascoltatori oggi non abbiano avuto uno spaccato di opinioni, come avete visto, tra Massimo Mucchetti e Pietro Ichino rispetto a Massimo Cicero. La scelta che ho fatto io è quella di aver dato più spazio a chi ha avuto argomenti critici, seppure nell'ambito di una cosa che è quella che poi al quale il mio interlocutore, insomma, il mondo riformista. Detto questo, siccome io sono per un mondo ideale in cui ci sia un'alternativa secca tra contratti nazionali e contratti aziendali, e quindi è un mondo in cui il sindacato ragiona diversamente, i dipendenti, dico che per arrivarci bisogna essere molto attenti a quello che si fa come primo scalino. Quindi in queste ore io mi auguro che politica, sindacato e anche azienda tengano tutti la testa molto sulle spalle. Bisogna far ragionare il cervello e parlare meno in queste ore, perché se si commettono errori in questo primo passo possono venirne fuori delle tendenze molto, ma molto incredibilmente negative. Grazie in regia Petro Lacorte, in redazione Antonella Migliaccio, Lino Giornale Radio, appuntamento a domani.